Hai visto che ore sono? Sono le 7. Le 7 del mattino. L'inizio di una nuova sfida. L'alba di un nuovo giorno. Giovedì 17 gennaio 2008, l'anno della svolta. Al microfono di Rock FM c'è l'Ariele. In sua compagnia, Mister Trombetta. In regia, Spadino. E in arrivo, Roberto Friccantoni. Gli ingredienti giusti per la tua colazione stramaledettamente rock. Fottutamente rock. Ciao Lucas, patente 849. Ce la facciamo, ce la dobbiamo fare. Pane, burro e rock and roll. Anzi, sai che ti dico? Ce la faremo! La tua colazione. Ah, sì. Arriveremo anche oggi. Pane, burro e rock and roll. Fino alle 9 del mattino e oltre. Ce la mangiamo questo giovedì. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. No, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Un affettuoso saluto a tutti gli amici e le amiche sintonizzati sulla frequenza di Rock FM. Un saluto a coloro invece che ci ascoltano poi con calma l'MLM in fuori sincro grazie a RadioRockFM.com o al nostro contatto MySpace. Il buongiorno ovviamente vi arriva dalla voce dell'Ariele, pronto a condurre, a governare anche quest'oggi questa gabbia di matti, puntata 163 di Pane, Burro e Rock and Roll, già programma di culto. Non posso far finta di nulla. È giovedì, è giorno di estrazione o quella roba lì, insomma, il lotto si fa il martedì e il giovedì. Quindi tra le varie cose appuntate dalla redazione, che inizia a darmi un po' troppi fogli redazione adesso, sono sempre un essere umano rock, cioè con tutti sti fogli vado in palla, hai capito? Sentiremo molto probabilmente la Sciura Carla, i suoi numeri non sono usciti ma continueremo a darli come ci ha imposto lei. Dovrei sentire quest'oggi anche Matte, 13 anni, la band, il ragazzino di Firenze che mi ha formato la band da qualche settimana, e ho parecchi nomi da proporgli che ci avete scritto voi al nostro numero di SMS piuttosto che alla casella di posta elettronica. Nomi terribili, ragazzi. Abbiamo un'oretta scarsa a disposizione per rifarci. Se vi viene qualche buona idea da qua alle 8:15 sarebbe meglio, perché quelli che avete proposto veramente, senza offesa, facevano schifo. Ragazzo sta iniziando, noi lo vogliamo sponsorizzare, non possiamo dargli un nome che è una ciofeca. Se la band c'ha un nome che è una ciofeca, già non parte bene, eh? Invece noi, per cominciare al meglio la giornata, guarda il buon Spadino. Iniziamo bene con la musica. Jane's Addiction, Juan Addiction, in splendida forma, anni fa. Cantavano Jane Says, versione live. Bravo Spadino, mi fa emozionare così. Oh mamma che emozione! Jane. Se lo dice Jane, stai preciso, no? Jane says Juan Addiction. Mi piace un sacco annunciarli così. Jane's Addiction. Era un loro album, no? Che iniziava Juan Addiction. Sempre piaciuto, vabbè. Vediamo di occuparci di questa trasmissione. Mentre andava il brano, mi sono venute in mente altre, almeno un'altra dozzina di cose che dovremmo affrontare seriamente nella puntata di oggi e che ovviamente non affronteremo, perché è un po' il bello di Pane, Burro e Rock and Roll. Un programma approssimativo, no? Ci poniamo degli obiettivi, abbiamo cose da fare e da non fare e poi ovviamente non le facciamo e gli obiettivi non li raggiungiamo perché siamo rock, no? E che ce frega a noi? Vi ricordo le coordinate, ma quello preciso, puntuale, a quest'ora sempre non ci casca. 335 100 77 77, il numero di SMS e la casella di posta elettronica che risponde all'indirizzo ariel@radiorockfm.com. Un messaggio di ieri che non ho letto, data la mole, però vedete, poi me li ricordo il giorno dopo. Ci tengo ai vostri messaggi, perché voi pensate, oh, quello non me l'ha neanche letto, invece poi penso tutto il giorno ai vostri commenti. Un messaggio mi aveva particolarmente colpito ieri, un amico o un'amica, non ricordo perché non era, anche perché non era firmato, che faceva un po' l'invidiosetto, il gelosino o la gelosina. Il commento era tipo, voi cagate solo gli inviati speciali, a noi non ci leggete nemmeno. Amico, amica, qua tutti potete trasformarvi in inviati speciali di Pane, Burro e Rock and Roll. Non c'è alcun filtro, quindi basta scrivere all'SMS o alla mail, proporvi per quello che siete, per l'apporto che volete dare a Pane, Burro e Rock and Roll, e noi vi facciamo partire. Non come... Tra l'altro devo confessare che in fuori onda ci sono almeno 4 radioascoltatori che sentiamo quasi regolarmente per cercare di dargli un obiettivo, ma non possiamo darvelo noi. Siete voi che dovete inventarvelo. A questo proposito saluto Alessandro, il più fedele di tutti. Almeno un paio di volte alla settimana. Oh ragazzi, io voglio farli inviare. Oh Alessà, inventati qualcosa. Che t'ha già di, che t'ha già fa, eh? Già troppi messaggi. Vedo una proposta per il nome. Se vabbè, mi dimenticavo, senza offesa, mi dimenticavo di ricordare che l'altro sondaggio che è partito è quello riguardante il desktop, ovvero lo schermo del vostro computer. Sondaggio dedicato in maniera particolare agli impiegati, ai colletti bianchi, a chi è rock veramente dentro e forse un po' meno fuori, con tutto l'affetto possibile. Cosa ci avete lì sul vostro computer? Ne stanno già saltando fuori, ovviamente, di cotte e di crude. Ve ne renderemo conto e continueremo a tenere le vostre confessioni. Una confessione, vabbè, a sapere cosa mettete lì sul computer. Si chiamano Fleetwood Mac e si prosegue così. Thank you. Certo è che se il 16 è il numero preferito da Roberto Fricantoni, so che avrà qualche problema questo giovedì 17 di gennaio. Buongiorno maestro. Buongiorno DJ dottor Ariele. Mi chiami pure dottore, grazie. Dottor Ariele, buongiorno. Come vive questo 17? Maestro? Ma guardi, l'importante è che non sia venerdì 17. E ce la siamo scampata veramente per un filo. Intanto la redazione si ingrossa perché abbiamo ma dove, nei pantaloni? L'arrivo. Segnaliamo l'arrivo. Il nostro spadino in ritardo. Il nostro regista in ritardatario. Era solo andato un attimo in bagno. Non lo vedevo. Fa così tutte le mattine. Almanacco del giorno che fu? Sì. Le sembra una buona idea? Ma sì, guardi, quasi io volevo distrarla. Comunque il 17 di oggi non mi crea problemi perché io voglio andare avanti, voglio reagire ed essere positivo. Anche perché, guardi, il 17 gennaio del 1929 nasceva Braccio di Ferro. Per la prima volta viene pubblicato su un quotidiano. Ah, Popeye. Il famoso Popeye. Quello che mangiava gli spinaci. Il fumetto creato da Elsie Chrysler Seagal. Come fa a saperlo, maestro? No, lo sto leggendo qua sul foglietto che mi ha passato la redazione e che ha passato solo a me, non a lei, perché gli ho dato 5 euro in più. Proseguiamo con una di quelle notizie che svoltano la giornata, nel senso che il 17 effettivamente può portar male e questo è un accadimento. Dipende. Di quelli che fanno pensare. Alcuni sostengono che il 17 porti bene, la cosa è controversa. A proposito, era il 17 gennaio del 66, un bombardiere B-52 si scontra con un aereo di rifornimento KC-135 sui cieli della Spagna. Ci sarà stato un cielo particolarmente nuvoloso. Come avranno fatto a scontrarsi? Ma non solo. Il nostro bombardiere, quando si scontra, sgancia incidentalmente 3 bombe all'idrogeno da 70 chilotoni nei pressi della cittadina di Palomares e un'altra in mare. Nessuna esplode però, vede? Sì, la metafora della sfiga. Sì, la cittadina Palomares ringrazia sentitamente. Legge la metafora della sfiga. Sì, la leggo, ma c'è sempre tempo, nel senso che queste... Qual è la metafora? Che una bomba da 70 chilotoni ti può cadere in testa ma magari non scoppia. Sul momento. No, però, non è scoppiata. Però può sempre scoppiare, insomma. No, magari un successivo venerdì 17, no, non lei, è detto. Lei sta facendo della dietrologia, no, non è scoppiata. No, anzi della futurologia, perché in futuro può scoppiare. Non è scoppiata, ma un venerdì 17 del 2015 potrebbe. E la cittadina di Palomares. Mi dica. Aia, io ho cercato di tenerla su. Aia, ma chiudiamo con una notizia che non le piacerà affatto. Mi dica, sono pronto. Era il 17 gennaio dell'85, sì? Quando la British Telecom annuncia il ritiro delle celebri cabine rosse del telefono britannico. No! Sa come? No. Cabine, tornate alla base. E loro, tu, non tornate tutte alla British Telecom. Che belle, quelle rosse. Dall'85. L'ho sempre detto, i britannici sono alieni. We'll be right back. is love, White Snake. Il miele nella vostra colazione, lo zucchero del vostro breakfast. I White Snake che si chiedono se è amore o dell'altro. Chissà cosa potrebbe essere se non è amore. Mi in mente qualcosa, Frick? Vabbè. Mi tufferei di testa sui contatti di quest'oggi via SMS, perché no? Iniziamo a dare una scremata. Innanzitutto Andrea ieri chiedeva strombazzata di Mister Trombetta, è andato tutto a posto, ragazzi, funziona. Propone di testarlo anche sui numeri dell'otto. Effettivamente non abbiamo mai strombazzato i numeri dell'otto. Oggi ricordamelo, Trombetta, dopo, Salutiamo Angelo da Varazze. No, basta sta storia, Sono d'accordo, scrive con l'ascoltatore di ieri, potreste veramente iniziare pane, burro e rock and roll alle 6, perciò invito tutti i nottambuli a inviare sms per sostenere la causa. Angelo, capiamoci, guardami negli occhi. Abbiamo da strombazzare il patentato 627, l'amico che ieri si è lamentato in onda del padre che ascoltava Liscio e ci aveva avvisato che oggi sarebbe stato il suo compleanno. Mi piace tra l'altro la segnalazione, patente 627 con bustina. Per i primi 10 minuti ho pensato che avesse appena comprato l'erba, poi mi sono ricordato che invece i patentati di Firenze hanno anche la bustina, quella per la patente, ho capito. Quindi sia chiaro, da adesso in avanti, quando a pane, burro e rock and roll parliamo di bustine, intendiamo quello, ok? Primo regalo, mi compro i biglietti per gli Iron Maiden. Bravo, buon gustaio, dovresti portarci anche tuo papà. Concerto degli Iron Maiden potrebbe apprezzare, no? Che ne so, magari apprezza un po' il metallo britannico. Ringrazio invece un'altra segnalazione importante, sempre via SMS. Buongiorno, sono 3 giorni che vi ascolto perché sono malata. Ammetto che la vostra, come dire, scemenza mi mancava. Vi auguro un buon inizio di giornata, vi chiedo una strombazzata per la mia pancia, che sono 24 ore, che mi permette di stare tranquilla senza correre. E ride. Sia chiaro, qualsiasi segnalazione sul vostro intestino qui a Pane, Burro e Rock and Roll è sempre ben accetta. È un piacere sapere come state, se è tutto a posto, se andate regolari, ma perché a quest'ora c'è anche quella sfumatura lì della vita, no? Per chi è bello preciso, in molti ci ascoltano anche dalla toilette, no? Buona giornata anche a voi. Mississippi when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high. And I'm gonna play this thing until the day I die. San Giovanni in Persiceto, Bologna. Bagno di casa Veronesi. La signora Marisa alle prese col bagnetto del suo piccolo Roberto. Avete ascoltato l'intervallo. Pane, burro e rock and roll. La trasmissione di culto dove il rock è anche per i neonati che si fanno lavare.